fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. E ci siamo, Ristorato Convento, diretta sabato sera in compagnia degli amici che vengono da Trento, Baselga di Pinè, provincia di Trento. Siete venuti assieme o uno da una parte e uno dall'altra praticamente? È una coscrizione, quindi la festa dei coscritti, siamo tutti insieme con un pulmino. Siamo partiti da Baselga di Pinè in provincia di Trento e siamo tutti insieme per far festa, quindi qua. Fantastico, tu come ti chiami? Andrea. Poi abbiamo? Gabriele. E poi? Nicola. Ecco, Nicola ragazzi, ecco, fa il mio stesso lavoro, vero Nicola? Sì, conduco un programma che si chiama Sambarcanda su sambaradio.it. È la radio universitaria dell'Università di Trento. Gang. Ah, quindi sei un conduttore. Cosa si occupa il tuo programma? Così giusto per sapere. Si parla un po' di tutto in realtà. Ci sono diverse interviste con ospiti speciali. Si parla un po' di sport, di musica, di politica estera anche. Tocchiamo anche un po' il tema politico e anche di viaggi. Si parla un po' di tutto. Ah, un po' di tutto, perfetto. Ma i tuoi amici li hai mai portati in radio? Non te li sei mai portati? No, non siamo ancora entrati nella gang. È un peccato, Nicola, io li porterei perché sono due personaggioni, no? Cioè... No, non ci intendiamo di altre cose. Di cosa si intendono? Parlare d'altro. Allora, sono più per gli ortaggi? Per gli ortaggi, voi? Sicuramente, noi parliamo di patate, parliamo di fagioli, parliamo di piselli. Io l'ho visto, anche di piselli? Anche di piselli, piselli e patate, dai. Ti vedevo, una cosa unica. Lo vedevo più proiettato sulla patata, ragazzo. No. Poi no, mi seguono dai social, perché questa settimana vorrei ricordare c'è un'intervista con l'ex cantante degli Iron Maiden, Blaze Bayley. Potete seguirmi su Instagram, su Samba Radio, trattino in basso radio, oppure su Facebook a Nicola Pisetta. Chiedetemi l'amicizia, io accetto tutti. È vero, ragazzi, soprattutto. E anche Gabrizzano su Instagram, grazie. Quello sei tu? Quello sei tu. Allora, aspetta. Nicola lo sta facendo professionalmente per lavoro, e quindi tu lo stai facendo per. Una marchetta così gratis. Tu lo stai facendo per la patata, praticamente. Esatto. Cioè, di tutto. No, ma si vive per la patata, quello è il problema. Quindi... Tu per cosa lo fai? Per la patata anche tu. Allora siete molto. No, a parte gli scherzi, no, comunque è... bella serata, bella situazione, grazie al convento. E siamo qua in tanti e è veramente una bella serata. Merita. Se non sapete cosa fare in questo momento, insomma, venite a Lunato del Garda, provincia di Brescia. Belli carichi e qua c'è festa veramente. Avanti. È festa tutto l'anno, qua ragazzi, è sempre così, eh. Poi vorrei ringraziare Andrea Bortolotti per la serata magnifica che è riuscito a organizzare, perché comunque è tutto merito di Andrea Bortolotti. C'è da dire che siamo un gruppo di persone che è veramente fantastico, quindi non è da ringraziare una persona perché ha organizzato, ma da ringraziare tutte le persone perché sono venute, quindi è totalmente diverso. Comunque ringrazio anch'io il convento Lunato del Garda perché ci sta omaggiando di questa serata che è fantastica, è piena di persone, è piena di allegria, e quindi siamo tutti contenti, venite a ballare sul cubo tutti. Grana, mi è diventato serio, eh. Ricordo che Andrea Bortolotti era quello della patata all'inizio. Viva la patata, ragazzi! Esatto. La promo ci sta sempre. Io farei... Ricordiamo, ha un difetto. Ha un difetto? È interista. Andrea Bortolotti è interista. Forza Milan, ragazzi, Radio Convento, solo per... No, ecco, nessuno... Per tutti. Così, nessuno è perfetto, diciamo così. Però ecco. No, non dovremmo parlare comunque di calcio. No, esatto, bravo. Dopo l'una si parla solo di serata. Non è che una serata dove ci si diverte così, trovare un argomento dove sia contraddittorio per tutti, penso che non sia una cosa. È un pacifista, cioè lui, io lo vedo in politica che mi promette più patate per tutti. Questo l'elezione comunale a Baselga di Pinè potrebbe essere una new entry. Ah, votate Andrea Bortolotti. Sono già candidato per più patata per tutti. 2020 Andrea Bortolotti, mi raccomando, se siete residenti a Baselga di Pinè, Andrea Bortolotti è il rappresentante che fa per voi. È conosciutissimo. Sì, Hai conosciuto? Ce l'abbiamo. Allora, qual è la, ditemi una caratteristica di Andrea, cioè una cosa espansivo, che lo contraddistingue. Espansivo. Si espande? Ma da che parte si espande? No, perché verso la patata, dai. No, nel senso sempre in modo è un ragazzo espansivo. Sì. Tu cos'è che hai di positivo che io seguo lui. Allora, se cioè, vi espandete, siamo un seguace. Invece Nicola, parte seria del gruppo. Nicola lo conosco da quando ero piccolo, e da quando ho aperto questo progetto appunto di San Barcanda verso la radio. Sì. Ha avuto una stima progressiva verso di lui per tutte le cose che ha fatto praticamente. Ti piace la stima progressiva? Io di Nicola mi ricordo quando ero piccolo che aiuto. Facevamo la collezione di figurine dell'album Panini. Sì. E lui aveva completato l'album e aveva vinto l'almanacco e lo sapeva a memoria. No, quasi. Lui sa tutto del calcio. Davvero? Dovete chiedere qualcosa di calcio a Nicola Pisetta, lui sa tutto. Lui una cosa allucinante. Te parti dalla Serie C, quindi sì? da categoria professionisti, arrivi alla B, arrivi alla A, gli chiedi qualsiasi persona di qualsiasi squadra, lui ti sa dire la storia di qualsiasi giocatore. Davvero? Sì. Dai, allora mi avete incuriosito. Facciamo un test. Dai, provate a fargli una domanda, vediamo se la sa. Concentrati con le cuffie, Nicola. Potrei. Cioè, allora, mettiamo in chiaro. Proviamo, dai. Risultato e gol della finale Francia-Brasile nel 98. 3-0 Brasile, doppietta di Zidane e 3-0, se non vado errato, di Dugarry. Non vorrei. Sì! Rullo di tamburi, ragazzi. Dugarry, qua abbiamo rullo di tamburi. No, grandissimo, è un computer vivente. Ditemi, lui sapeva tutto l'almanacco di Altafini, di José Altafini. Sapeva tutto l'almanacco apposta. No, ma non vorrei andare errato, perché lui è una macchina da guerra. Vorrei chiedere i minuti, però dopo lo vado. Allora, dopo io sono sicuro della doppietta di Zidane, anche andiamo a cercarlo. Quindi ecco, anche gli amici a casa possono andare a cercarlo per vedere se Nicola dice il vero o il falso, eh? E ricordo che è tutto in diretta e non è preparata. Sono quindi sicuro della doppietta di Zidane. Sei sicuro? Sono sicurissimo. Il 3-0 mi ricordo. Fantastico. Ma Nicola, sai anche del passato, tipo anni 80, 70, 60 o allora, la storia dei mondiali? Allora, 86 e allora, 86, 3-2 Argentina, gol di Brown, Valdano e Burruciaga su assist di Maradona. No, non ci credo, ma veramente. Madonna, chi abbiamo qua, ragazzi? Cosa fa? Bruno Pizzul, dove io sei? No, ma non ci siamo nell'86, abbiamo fatto il 90, chi l'ha vinti? Germania Ovest 1-0, gol, non so se di Müller su calcio di rigore, non vorrei sbagliarmi, io lo ripeto in continuazione. Attenzione, ragazzi, abbiamo qua Wikipedia. No, veramente, non sta leggendo. Invece che Sabarcanda potesse perdere, aprire tipo Wikigol. Mi fai un riassunto di dei mondiali 2006 Germania, vabbè. Adesso no, va bene così. Abbiamo capito. E in più, ragazzi, non so se vi siete accorti, ma è già 8 minuti che stiamo parlando del nulla praticamente, però possiamo parlare l'importante è non parlare del tempo. Ecco, non parliamo, non possiamo anche star qua 20 minuti, ecco, Nicola vuole prendere la residenza qua, ecco. Lo teniamo. Ma no, comunque ti ringrazio per l'esperienza che ci hai fatto fare qua. Ti è piaciuta? Adesso minacciate Nicola, dite che verrete nella sua radio, che ricordiamo è una radio. C'hanno qualcosa da raccontare? Ma serve una cosa molto simbiontica, chiamare te anche alla sua radio, magari, solo che io non so niente. Ho fatto un viaggio particolare. Ho fatto un viaggio particolare. Sono stato a scoprire me stesso. Sono andato a cercare me stesso. Ma un viaggio particolare nel mondo? Sono andato in Thailandia. Secondo me la Thailandia, ragazzi, è un posto incantevole, ve lo assicuro. Comunque potreste trovarvi voi due per parlare nella reciproca radio. Secondo me potrebbe essere una cosa molto interessante. Mi piace che lui è un organizzatore di tutto. Cioè, ci sta organizzando anche dalla festa di Andrea. Ricordiamo una cosa. I viaggi di coppia. Prima di andare in chiusura, Andrea ha studiato in Spagna, ci deve raccontare un po' della Spagna, dell'esperienza spagnola di Madrid, no? Andrea. A Madrid, là, quello che si chiamava tuo quartiere, quello bello, come si chiamava? In che quartiere è finito? Ciueca. Cosa succede in quel quartiere? Succede di tutto in quel quartiere. No, a parte poco si parla tanto. È stata un'esperienza molto bella perché comunque ho vissuto a Madrid per 2 anni e mezzo studiando odontoiatria. Comunque diciamo che se sai dove andare è un paese comunque da visitare, non solo per le persone da conoscere, ma sicuramente anche dei posti dove vedere, perché sembra una solo una capitale da vedere per quanto riguarda la gioventù. Ho capito, ma quindi sei anche dentista? No, non sei dentista. Non ho finito. Sei andato a trapanare praticamente. Sono andato a trapanare e basta. Esatto. Era quello il succo della tua. Infatti, della tua... si vide per la patata. Infatti. Ah, già, è vero, questo è il mito ormai. Aspetta, raccontaci, però. Allora, mettiamo in chiamano una cosa: a Madrid facevano dei tornei di freccette di calcio balilla, non lo so, in cui vincevano dei biglietti per andare a vedere il Real Madrid, non è vero? O l'Atletico Madrid? No, la Real Madrid. Avevi organizzato questa cosa? No, c'erano questi tornei per cui se vincevi a calcio balilla, appunto, potevi andare a vincere i biglietti per andare a vedere appunto le partite del Real Madrid a Bernabeu, e lì si vinceva, e siamo andati un paio di volte comunque a vedere il Real Madrid. Ci canti l'inno del Real Madrid? Nel tempo libero Andrea me lo ricorda a Tenerife, è là vicino, me lo ricordo. Allora, una domanda, ma lui sa tutto della tua vita? Facebook fa male. Vive per te? No, ci sono gli affari degli altri, Potrebbe essere Facebook, come l'amico. Io ero qua al freddo e lui postava le foto con scritto sotto relax, era a Tenerife. L'ha invidiato leggermente? Però era studiato. Si vede che studiava. Io sono Sandrino Convento. Allora ti ringrazio, Sandrino Convento, per questa esperienza. Siamo stati contentissimi di appunto vivere questa esperienza con te. Mi piace. Niente. Andremo in onda tutta la notte. Mi piace un po' per l'accento, che è un po' da Orsi, da Trento. Un'altra marchetta. Allora, passate a Basilica di Pinè. E un altopiano favoloso a 1000 metri con 2 laghi e tanto divertimento. Li aspetti? Purtroppo dobbiamo dire una bella cosa. Sì. Basilica di Pinè è stata devastata dalla tempesta di Baia e i boschi sono distrutti. L'anno scorso, vero? Però troppo. La figa quindi non è distrutta. Ecco, va bene, ecco, giustamente ci vuole questo. No, abbiamo bisogno della vostra visita, perché comunque merita tantissimo la nostra località. Quindi è davvero meraviglioso. Allora, ricordiamo per quelli che geograficamente non sono molto afferrati, Pinè si trova vicino a Trento, basta prendere l'autostrada. Siamo a 20 minuti da Trento, siamo a 1000 metri. Perché la ci sono i mercatini o non ci sono? C'è Heidi, però c'è bella gente. C'è il paese dei presepi a Miola di Pinè. Io e Andrea siamo di Miola di Pinè. E anche di Gabriele. Anche noi. Stavo dimenticando di Gabriele, in realtà. Allora, fate visita anche al Bar Talpa. C'è da dire che è un paese abbastanza turistico per quanto riguarda tipo lo sci, patinaggio e così. Ok. Diciamo che vogliamo sponsorizzare appunto questa promozione, che sarà il paese dei presepi, come nominato proprio in dialetto tipico trentino. Ok. A Miola di Pinè, che appunto valorizza tutti i tipi di presepi che ci sono. Che ci sono in giro, appunto. In giro. Ok. Quindi se chi viene in questo momento vede queste cose, esattamente, giusto? No, una cosa molto interessante da fare con le famiglie, così. C'è per il clima natalizio, insomma. E se qualcuno viene a Pinè e vi vuole conoscere, dove vi trova? Si trova al Bar La Talpa, al Lido, New Lido di Basilica di Pinè. No, non fare il modesto, Gabriele, dai. Andate dallo zio di Gabriele, Matteo. Bar La Talpa. Pizza napoletana più buona. La pizza napoletana. Ok, allora. Bella raga, venite al convento e ci siamo qua. Ok, allora ragazzi, vi ringrazio tantissimo. Vi ringrazio tantissimo per questa esperienza. Vorrei ripetere prima di andare in chiusura e pubblicizzare il programma radio: andate su Facebook e cercate San Barcanda, oppure su Instagram San Barcanda trattino in basso radio, e trovate questa settimana l'intervista con Blaze Bailey degli ex Iron Maiden. Vi aspetto, non mancate. Esatto, un saluto da Nicola, giusto? Esatto. Gabriele. di Andrea. Ciao, grazie Pini. Mille, ragazzi. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.